questo è certo, ed è letto mio sposo. Cieli, vive Tamini, e al mio comando non ubbidì. Al nome mosso a pietà degli aspri miei tormenti, ti riconduce a consolarmi a cuore. Quel nome spergiurato da te, vil donna! L'ingiurie della mia fortuna, ma Berenice... Intendo, Berenice ti diede col sangue suo la sua viltà, ma forse al primo tradimento il secondo accoppiasti, e all'oltraggio del barbaro trionfo il figlio ancor serbasti. Lo serbai, secondate uccelli l'amorosa menzogna, ma lo serbai di quella tomba in seno, qui è sepolto, oddio, l'unica tua delizia e l'amor mio. In quei modi amata prole, troppo tenne da me la mia sciagura. Si è servito alla gloria, omai si serva alla paterna tenerezza. Parli alquanto il dolore, mai la virtù il sommerga entro del core.